Letture di Radio 24. Un castello infestato e uno spirito in cerca di eterno riposo sono gli ingredienti di questo breve racconto di Charles Nodier, pubblicato nel 1822. Uno spettro infestava il castello di Lindenberg al punto da renderlo inabitabile, ma in seguito, placato da un sant'uomo, si ridusse a occuparne soltanto una stanza, che rimaneva perennemente chiusa. Ogni 5 anni però, il 5 di maggio, all'1 precisa del mattino, lo spirito usciva dal suo asilo. Si trattava di una monaca coperta da un velo con indosso una veste imbrattata di sangue. In una mano stringeva un pugnale, nell'altra una lampada accesa. In questo modo scendeva la grande scalinata, attraversava i cortili, usciva dal portone principale, che in precedenza ci si era curati di lasciare aperto, e spariva. Tale misteriosa data era ormai prossima quando l'innamorato Raymond ricevette l'ordine di rinunciare alla mano della giovane Agnes, da lui amata perdutamente. Il giovane chiese allora un appuntamento alla ragazza, lo ottenne e le propose un rapimento. Agnes sapeva troppo bene quanto puro fosse il cuore del suo innamorato per esitare a seguirlo. «Tra 5 giorni, gli disse, la monaca insanguinata dovrà fare la sua apparizione. Tutte le porte saranno aperte e nessuno avrà il coraggio di trovarsi sulla sua strada. Mi procurerò un abito adatto e uscirò senza essere riconosciuta. Voi tenetevi pronto nelle vicinanze». A quel punto giunse un'altra persona e furono costretti a separarsi. Il 5 maggio a mezzanotte Raymond si trovava alle porte del castello. Una carrozza e 2 cavalli erano pronti, nascosti in una caverna vicina. Le luci si spengono, ogni rumore si tace, suona l'una. Il custode, secondo l'antica usanza, apre il portone principale ed ecco un lume appare nella torre a est. Percorre un tratto del castello, scende. Raymond scorge Agnes. Riconosce l'abito, la lampada, il sangue, il pugnale. Le va incontro. Lei si getta nelle sue braccia, quasi svenuta. Lui la porta nella carrozza e partono al galoppo. Agnes non pronunciava una parola. I cavalli correvano a più non posso. 2 stallieri, che cercarono invano di trattenerli, vennero travolti. Intanto scoppia un tremendo temporale. I venti soffiano furiosi. Il tuono rimbomba fra 1000 lampi. La carrozza si rovescia e va in pezzi. Raymond perde conoscenza. La mattina dopo si sveglia circondato da alcuni contadini che tentano di rianimarlo. Parla di Agnes, della carrozza, del temporale. Quelli non sanno nulla e non hanno veduto nulla. E lui si trova a 10 leghe dal castello di Lindenberg. Viene portato a Ratisbona, dove un medico gli cura le ferite, raccomandandogli di riposare. Il giovane innamorato fa compiere 1000 inutili ricerche e pone 100 domande alle quali nessuno sa dare risposta. Tutti credono che abbia perso la ragione. Così la giornata trascorre. Infine la debolezza e lo sfinimento lo fanno cedere al sonno. Dormiva tranquillamente quando all'orologio di un convento vicino suona l'1. Allora un terrore inspiegabile lo afferra. Gli si rizzano i capelli sul capo. Il sangue gli si ghiaccia. La porta si spalanca con violenza e alla luce di una lampada posata sul caminetto, Raymond vede venire avanti qualcuno. È la monaca insanguinata. Lo spettro si avvicina guardandolo fissamente e per un'ora intera rimane seduto sul suo letto, finché l'orologio suona le 2. Allora il fantasma si alza e afferrando la mano del giovane con le sue dita gelide gli dice: «Raymond, io sono tua e tu sei mio per la vita». Pronunciate queste parole esce e la porta si richiude alle sue spalle. Finalmente libero, Raymond grida, chiama aiuto. Tutti si persuadono sempre più che sia uscito di senno. Il suo stato di salute si aggrava. Ogni rimedio sembra risultare vano. La notte seguente la monaca torna di nuovo e le sue visite si ripetono così per parecchie settimane. Lo spirito si manifestava solo a lui. Nessuno di quelli che pregava di dormire nella sua camera riusciva a vederlo. Nel frattempo Raymond venne a sapere che Agnes, uscita troppo tardi, lo aveva cercato inutilmente nei pressi del castello. Questo gli fece comprendere di aver rapito la monaca insanguinata. I genitori di Agnes, che non approvavano affatto il suo amore, approfittarono dello spavento prodotto sulla ragazza da questa avventura per convincerla a prendere il velo. E intanto Raymond veniva finalmente liberato dalla sua spaventosa compagna. venne condotto da lui un misterioso personaggio che in quei giorni si trovava casualmente a Ratisbona. Costui fu introdotto nella camera del giovane proprio all'ora in cui, di solito, faceva la sua comparsa la monaca insanguinata. Questa lo vide e si mise a tremare. Quindi, a un suo ordine, spiegò il motivo della sua importuna assiduità. Era una suora spagnola che aveva abbandonato il convento per vivere nel peccato con il signore del castello di Lindenberg. Infedele con il suo amante, come lo era stata con Dio, un giorno lo aveva pugnalato, assassinata poi dal suo stesso complice, che avrebbe dovuto sposarla. Il suo corpo era rimasto insepolto e la sua anima, senza asilo, errava da più di un secolo. Chiedeva soltanto un po' di terra per l'uno e delle preghiere per l'altra. Raymond promise ogni cosa e non la vide più. Avete ascoltato la lettura del racconto di Charles Nodier, La monaca insanguinata, Coniglio Editore, 96 pagine, 10,50 euro. Letture di Radio 24. Hijaba Shego è nata a Roma da genitori fuggiti dalla Somalia dopo il colpo di stato di Shad Barre. Nel suo libro La mia casa è dove sono, Hijaba racconta le difficoltà ad essere accettata, ma anche il suo amore per l'Italia. E osservando le piazze e i monumenti di Roma, trova l'occasione per riflettere sulla Somalia, un paese che per molto tempo ha conosciuto solo attraverso i racconti fatti dalla madre e dai fratelli. L'elefantino del Bernini di Piazza della Minerva è uno degli amici migliori che ho nella città di Roma. Per me quell'elefantino è somalo, ha lo stesso sguardo degli esuli e anche la stessa irriverenza. Bernini, infuriato perché gli avevano sabotato il progetto originale, disegnò l'elefante in modo che puntasse le terga verso il vicino convento. Nel tempo ho scoperto che quell'elefantino ha lo stesso sguardo della mia mamma. Non può tornare, non può dissetare la sua angoscia. L'esule è una creatura a metà. Le radici sono state strappate, la vita è stata mutilata, la speranza è stata sventrata, il principio è stato separato, l'identità è stata spogliata. Sembra non esserci rimasto niente, ma poi c'è un lampo, quello che ti cambia la prospettiva. Mia madre di lampi ne ha vissuti tanti. Prima di essere strappata dalla Somalia, qualcuno l'aveva strappata dalla boscaglia. Da nomade è stata costretta a diventare sedentaria e ogni volta si è dovuta reinventare, ha dovuto ridisegnare la sua mappa. Quel lampo che vedo in mamma e nell'elefantino del Bernini sono le storie che nuotano dentro le loro pance. Dopotutto, se vi avvicinate a una somala o a un somalo, otterrete questo: storie. Storie per il giorno e storie per la notte, per la veglia, per il sonno, per i sogni. Mamma della boscaglia ha tutti i ricordi dolci, tranne uno, il giorno in cui la infibularono. All'inizio registrò solo il dolore, poi con gli anni, da sola, capì che quello che le era stato fatto era una mostruosità. Mamma non serba rancore, mi ha sempre detto. Si faceva, era tradizione. Nessuno aveva detto ai miei genitori e ai loro genitori che era una tradizione crudele, non prescritta dalla nostra religione. Aveva circa 8 anni la mia mamma. Come vuole la tradizione, le fecero fare un bagno e le donne si misero a cantare per lei. Quel giorno sarebbe diventata donna. Sapeva benissimo che sarebbe stato doloroso. Sua madre le aveva spiegato tutto. Arrivò dalla mammana, detta all'operazione, con una tremarella da fare tenerezza. Ogni volta sogno che qualcuno porti via mia madre da lì, la salvi. Invece non è stato così. Allargò le gambe. Fu ubbidiente, come si erano raccomandate le donne della famiglia. In quel momento ho cercato Dio. Pregai tanto il mio Dio. 2 donne le tenevano le gambe per impedirle di muoversi durante l'operazione. Tutto avvenne senza anestesia. Mamma non dimenticherà mai quel dolore fortissimo. Fu brava. Strinse i denti. Era una donna Saakad, mica una qualsiasi. Non poteva piangere davanti alla tribù. Nonostante la sofferenza, non ha mai cercato di divincolarsi. Fuggire era considerato una grande vergogna. Al termine, le vennero legati i fianchi e stette così per circa 1 settimana. Doveva dare il tempo alla ferita di cicatrizzarsi. Io ogni volta mi chiedo cosa sia scattato dentro mia madre in quel momento. Come ha fatto a capire che quello che le stavano facendo era profondamente sbagliato? Lei, con i fianchi legati, con una cicatrice che tardava ad arrivare, decide nel suo piccolo di cambiare il corso della storia. Io in un certo senso mi sento una mappa di mia madre. Mamma, con papà naturalmente, che è sempre stato contrario alla pratica, mi ha regalato l'amore. La volontà di mia madre, la sua esperienza di dolore, mi hanno permesso di essere una donna completa, con tutti gli organi al posto giusto. Ecco perché mi sento una mappa di mamma. Lei mi ha disegnato intera. senza omissioni né tagli. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Giaba Scego, La mia casa è dove sono. Rizzoli Editore, 168 pagine, 16,50 €. Il figlio più piccolo, l'ultimo romanzo di Pupi Avati, dal quale il regista bolognese ha tratto l'omonimo film, è incentrato sulla figura di un faccendiere, Luciano Baietti, un personaggio senza scrupoli che riesce a corrompere tutti. Anche la sua compagna, sposata e abbandonata al giorno delle nozze assieme ai loro figli Baldo e Paolo. Il tutto con la complicità di Sergio Bollino, un ex prete che anni prima aveva dovuto lasciare il convento proprio in virtù della sua ambigua attività di consulente finanziario. La prima domenica di settembre del 1992 a Bologna, nel piazzale antistante la chiesa di San Michele in Bosco, la donna che gestiva il chiosco dei gelati teneva in braccio un bambino sui 4 anni, cullandolo e canticchiandogli una stupida nenia. Al centro dell'ampio parcheggio assolato c'era solo una grossa Mercedes bianca dalle cromature scintillanti. Dallo sportello anteriore semiaperto pencolava un piede calzato di un sandalo monacale. A tratti dall'interno della vettura venivano gettati sull'asfalto fogli malamente accartocciati. Il professor Sergio Bollino era disteso all'indietro, lo schienale del sedile totalmente reclinato. Aveva un termometro in bocca ed esaminava alcuni documenti. C'era chi stava uscendo dalla chiesa, in tutto non più di una dozzina di persone. All'apparire degli sposi ci fu un applauso e un timido lancio di chicchi di riso. Lei era una giovane donna, bella ma dallo sguardo vacuo. Cappello, abito, scarpe e guanti color crema. Lui un belloccio aitante dal sorriso generoso che dispensava ai pochi presenti. L'uomo con i sandali, il solo che non si era avvicinato, si protese verso l'interno della sua auto, suonando il clacson. Si girarono tutti incuriositi. Lo sposo lo riconobbe e si affrettò a raggiungerlo. «Allora?» gli chiese l'uomo dai sandali. «A posto. Gli appartamenti?» «Tutto fermato. Siamo puntuali, no?» «Dobbiamo sbrigarci», replicò sbrigativo Bollino. «Un brindisi, come avevamo detto, e poi si parte». Gli sposi si avvicinarono al tavolino sotto l'ombrellone dell'Algida, sul quale troneggiava una torta con la scritta «A Fiamma e Luciano, sposissimi». Fra gli evviva e gli applausi dei pochi presenti, i novelli sposi tagliarono la prima fetta di torta e quindi si scambiarono un bacio. L'uomo dai sandali non si unì ai festeggiamenti. Fu più tardi, quando i pochi ospiti se ne furono andati, che Luciano, lo sposo, recuperò dal retro del chiosco 2 pesanti valigie avviandosi verso l'auto. Fiamma, la sposa, seduta con in braccio i 2 bambini che spiaccicavano gli avanzi della torta, piangeva e sorrideva accarezzandoli. L'uomo dai sandali, con una borsa in finta pelle sotto il braccio, si avvicinò al chiosco. Fiamma lo guardava senza smettere né di piangere né tantomeno di sorridere. «Sono il professor Sergio Bollino, signora». «Lo so», biascicò lei. «Ci sarebbero quei documenti da firmare», riprese lui dimostrandosi capace di estrema delicatezza. «Va bene», acconsentì lei senza muoversi, senza liberarsi dei bambini. Fu il professor Bollino a sgomberare il ripieno del tavolo dalla torta, mentre Luciano, che si era tenuto in disparte, chiamò a sé i 2 figli. «Paolo, Baldo, venite qui che papà deve parlarvi». I bambini lo raggiunsero. Bollino aveva estratto dalla borsa un fascio di carte, recuperò dalla tasca interna della giacca una penna e la porse alla donna. «Allora qui, una firma qui e una qui, seguite dall'indirizzo, la firma per esteso. Gli appartamenti dei miei, per quelli abbiamo già fatto con il notaio, credo», disse lei. «Sì, sì, per il trasferimento dei suoi immobili è tutto a posto. Questi documenti sono per la nuova società della quale lei è da questo momento amministratrice. Amministratrice unica». «Amministratrice unica», ripeté lei ridendo e vergognandosi di ridere. «Unica vuol dire che sono sola?» «Vuol dire che è sola, ma dovrebbe firmare», la sollecitò Bollino. Lei obbedì, chinandosi sulle carte. «Ecco fatto», disse Bollino raccogliendoli. «Suo marito glielo ha detto che tornerò almeno una volta al mese, ma solo per poche firme, per i verbali, i bilanci, e poi per l'assegno che le spetta. Mentre Luciano me lo porta via», disse sorridendo al colmo dello struggimento. «L'ha sposata, anche in chiesa. Così anche i bambini hanno un cognome, tutto come voleva lei». «Sì, mi ha sposata come volevo io», confermò più a se stessa che a quell'uomo in principe di Galles e sandali che le allungava una mano. Lei tardò una frazione di secondo prima di comprendere che avrebbe dovuto fare altrettanto. «Gli voglia bene», si raccomandò. «Ci conti». Bollino si allontanò mentre Luciano si avvicinava. Fra i 2, nell'incrociarsi, uno scambio di sguardi, quello di Luciano, interrogativo, quello di Bollino, rassicurante. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Pupi Avati, Il figlio più piccolo, Garzanti Editore, 194 pagine, 14 euro. Dalle partite IVA alla difesa del Made in Italy fino al fattore D. L'articolo che stiamo per ascoltare propone qualche riflessione di politica economica che l'Italia dovrà affrontare nel 2011. Non facciamoci illusioni. Rigore sarà una parola regina lungo tutto il 2011. Ce lo chiede l'Europa per evitare di fare la fine di Grecia e Irlanda. Nella vita quotidiana, rigore vorrà dire probabilmente lavorare di più e rimodulare i vecchi stili di vita. Ma non è detto che una società debba per forza morire per troppa austerity. Nelle difficoltà, nei momenti topici, può darsi pure che riesca a ritrovare l'anima perduta. L'anno che viene rappresenterà il banco di prova del fattore D, come donna. È vero che in una società apatica come quella italiana, le tribù femminili sono quelle più ricche di motivazioni e obiettivi. Ma dalle analisi sociologiche e dagli incoraggiamenti, bisognerà passare più prosaicamente alla misurazione concreta del protagonismo e dell'inclusione femminile. Ci vuole dunque un parametro D. Dovremo sapere, persino di trimestre in trimestre, come stiamo progredendo. Se no, son favole. È possibile che una partita IVA lavori con un ritmo H24, paghi oltre le tasse più di un quarto del fatturato alla gestione separata dell'INPS e poi debba aspettarsi a fine carriera una pensione vicina ai 500-600 euro? Certo che no. Ma siccome i lavoratori autonomi non hanno rappresentanza né sindacale né politica, tutti se ne approfittano. Perché si sa, una partita IVA non menerebbe mai a un poliziotto. Tutt'al più protesterà con uno spettacolo teatrale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo 2011, 5 sfide italiane, di Dario Di Vico e pubblicato dal magazine del Corriere della Sera del 23 dicembre. Dal disimpegno in Afghanistan al nucleare iraniano, fino alla Merkel e all'Europa che ha in mente. L'articolo che stiamo per ascoltare propone alcune riflessioni di politica estera che ci impegneranno per il 2011 e forse anche oltre. Sulla scena internazionale, il 2011 sarà un anno particolare, in grado di indicarci gli sbocchi futuri delle molte e pericolose transizioni in corso, a cominciare da 5 partite che possono cambiare il mondo. L'Afghanistan. Esiste un calendario per il disimpegno dei contingenti dell'ISAF, tra cui quelli italiano, che va dal 2011 al 2014. Nella seconda metà del 2011 dovrebbero verificarsi i primi prudenti ritiri, ma sono gli stessi servizi USA ad avanzare forti dubbi sul successo dell'intera manovra e a sottolineare che senza un coinvolgimento del Pakistan poco si potrà fare. Il 2011 ci consentirà di capire quanto incombente sia l'ombra di Saigon. L'Iran. Accordo negoziale tra Teheran e gli occidentali o proseguimento del programma nucleare di Ahmadinejad? In questo secondo caso, il più probabile, gli USA e soprattutto Israele dovranno valutare nel 2011 l'opzione di un intervento militare. Il conto alla rovescia per avere la bomba, infatti, si avvicina pericolosamente alla zona rossa e se un attacco aereo navale avrà luogo, tutti dovranno mettere in bilancio le prevedibili reazioni iraniane. Il conflitto israelo-palestinese. Dopo l'iniziale fallimento, gli Stati Uniti paiono decisi a insistere nei loro sforzi di mediazione. Non è escluso che il 2011 porti con sé qualche sorpresa. Netanyahu potrebbe trovare lo spazio politico che gli serve per un accordo, ma se così non fosse, potrebbe anche scattare la creazione comunque di uno Stato palestinese. Obama e Palin. Se vuole avere ancora qualche probabilità di essere rieletto, a Barack Obama servirà un po' di quella fortuna che sinora gli è mancata, soprattutto in termini di ripresa economica. E contemporaneamente andrà tenuta d'occhio la pitbull con il rossetto, quella Sarah Palin che potrebbe arrivare al 2012 come candidata repubblicana alla Casa Bianca. Angela Merkel e l'Europa. La Germania è sotto accusa per aver imposto la sua volontà agli altri europei, anche all'alleata Francia, sul metodo migliore per difendere l'euro. In realtà la cancelliera pensa alle elezioni e nel 2011 tra regionali e locali dovrà affrontarne ben 7. La posta in gioco è altissima. Si tratta di capire se l'Unione Europea combatterà la crisi con una maggiore integrazione politico-finanziaria oppure se gli interessi nazionali continueranno a dettare legge. E in quest'ultimo caso i malanni della moneta unica potrebbero segnare anche il declino dell'intero progetto europeista. Avete ascoltato la lettura dell'articolo 2011, 5 sfide mondiali, di Franco Venturini e pubblicato dal magazine del Corriere della Sera del 23 dicembre.